Quando si parla di supporti di fuoco, spesso si pensa alla scena di un film dove un soldato chiede via radio l'intervento dell'artiglieria, o di un aereo che viene in soccorso alle unità che sono sul terreno con un bombardamento, il tutto controllato dalla telecamera di un drone o di un team di forze speciali mimetizzate in un posto di osservazione. Scene spettacolari viste in molti action movies, ma dietro a queste attività che sembrano semplici ci sono delle misure di coordinamento molto complesse, che nella realtà richiedono un addestramento intenso e congiunto di tanti elementi che devono operare insieme sfruttando al massimo l'uno gli effetti dell'altro. Questi sono i Joint Fires. Pier Vincenzo Pizzo, tenente colonnello del comando di artiglieria di Bracciano, ce ne parla nel suo articolo. Addestrare i Joint Fires in un ambiente reale è molto costoso. Si dovrebbero coinvolgere aerei, elicotteri, droni di tutti i tipi, unità navali che supportano con il fuoco dal mare, unità terrestri su mezzi blindati o corazzati, unità del genio e non ultime le unità di supporto di fuoco con le diverse gittate, dai mortai agli obici fino ai lanciarazzi. A questi si aggiungerebbero gli assetti per la sorveglianza del campo di battaglia, che acquisiscano gli obiettivi e siano in grado di gestire e dirigere il fuoco terrestre ed aereo, come gli osservatori avanzati, Forward Observer, e i Joint Terminal Attack Controller, JTAC, o insieme nei Joint Fire Support Team. Tutti questi assetti, lavorando insieme, richiederebbero anche aree di addestramento vastissime. Se non si ha la possibilità di svolgere attività realmente sul terreno, la soluzione alternativa che permette il maggior livello di addestramento è la simulazione. Naturalmente la simulazione non sostituisce completamente l'addestramento sul campo, ma agevola la fase di apprendimento, insieme alla fase di familiarizzazione con i sistemi d'arma, le strumentazioni e gli equipaggiamenti, in modo da creare quella sicurezza che solo una maturata esperienza potrebbe dare. La simulazione addestrativa, sviluppata presso il Centro di Addestramento e Sviluppo Virtual del Centro Fire Targeting dell'Esercito presso il Comando Artiglieria in Bracciano, ha permesso di risolvere questo complesso quadro di problematiche, consentendo l'addestramento di tutti gli assetti alle procedure Joint Fires e poter usufruire di notevoli elementi di vantaggio. Il primo è la riduzione dei tempi e dei costi di formazione. Le piattaforme di simulazione si adattano facilmente alle esigenze didattiche delle rispettive specialità e replicano fedelmente ogni scenario operativo. Il personale viene immerso subito nell'ambiente sintetico e la formazione nasce proprio dalle esperienze sugli scenari virtuali, inizialmente didattici, poi via via sempre più realistici e complessi perché presi da lezioni apprese e da situazioni realmente accadute, fino a replicare fedelmente un'operazione prima di andare sul campo. Il secondo elemento importante è l'immersività nell'impiego dei sistemi di simulazione virtual. Le postazioni integrate con gli effetti visivi su schermi curvi, con i simulacri di mezzi e apparati complessi, sistemi d'arma, i mock-up, con i suoni e i rumori che riproducono l'ambiente reale, garantiscono sia che le procedure e le tecniche eseguite dallo specialista addestrato siano quanto più fedeli alla realtà, sia la riduzione degli incidenti e infortuni durante la formazione. La ripetizione continua delle procedure, nei diversi scenari, la possibilità di adattarle anche in situazioni diverse crea nel personale addestrato quegli automatismi di reattività e velocità decisionale che in operazione rischiano altrimenti di essere impediti o condizionati da situazioni critiche di tensione o stress. Nei vari paesi della NATO, purtroppo, i sistemi di simulazione specifici per i supporti di fuoco sono pochi e spesso privilegiano la sola funzione di osservazione del fuoco, tralasciando le altre, oppure vengono sviluppati in maniera settoriale, separando le diverse componenti in aree indipendenti l'una dall'altra. Sfruttando l'esperienza decennale del personale del centro nel settore, è stato utilizzato il sistema di simulazione VBS-3, in base ai più moderni trend di impiego, facendolo poi evolvere in un sistema dinamico, immersivo, modulare e interoperabile. In un edificio completamente dedicato alla simulazione, con diverse aree dedicate per le differenti tipologie di impiego, è stato sviluppato il Centro Addestramento e Sviluppo Virtual, dove possono essere attivate le singole sessioni per i posti di comando di artiglieria, per gli osservatori avanzati, per i JTAC, dove il centro ha l'accreditamento NATO. Nelle sessioni di addestramento collettivo, invece, in un unico contesto, è possibile addestrare, in uno scenario condiviso, unità di manovra, del genio, di artiglieria, JTAC, gli osservatori avanzati, gli UAV, aerei, elicotteri e gli assetti della Marina, le Joint Fire Exercise, Computer Assisted Exercise. Tutto questo complesso sistema di addestramento, inoltre, può anche collegarsi con altri siti e centri di simulazione in quella che si chiama simulazione distribuita e federata. Le esercitazioni di questo tipo costituiscono un fondamentale ambiente di convergenza di tutte le unità coinvolte in un'operazione, dove le richieste di supporto di fuoco interessano trasversalmente tutti i livelli operativi e la conoscenza delle procedure risulta un'esigenza comune e indispensabile, specialmente in ambito NATO e internazionale. L'ambiente di simulazione virtual, collegandosi con l'ambiente di simulazione live, con le unità sul terreno e con l'ambiente di simulazione constructive, per l'addestramento dei posti di comando delle grandi unità, costituisce un importante anello di congiunzione per il completamento delle procedure di impiego dei supporti di fuoco, dal singolo soldato sul terreno fino al posto comando della grande unità. L'offerta addestrativa del centro rappresenta un'ottima risorsa a disposizione dei Joint Fires della nazione e dei paesi NATO, che permette di conseguire un addestramento completo e coerente con le esigenze sempre più ambiziose delle moderne forze armate.